Radio 24 Reportage. Giglio, vacanza con relitto, di Raffaella Calandra. Anche i mostri con il tempo non fanno più paura, e sul porto del Giglio la grande balena, spiaggiata, inclinata e ora in gran parte svuotata, agli occhi degli isolani quasi non sembra più quel gigante da 300 metri e 114.000 tonnellate che la notte del 13 gennaio qui venne a morire. 3 mesi dopo, vista dalla banchina, a lungo trasformata in un unico centro d'emergenza, la Costa Concordia è come una spettacolare quinta troppo a lungo osservata che alla fine non stupisce più perché è divenuta parte del paesaggio. Ma ora, spariti gli obiettivi dei fotografi e ripartite le squadre dei cronisti, gli alberghi si aprono stavolta per i turisti. E se l'isola si impegna a ricordare al mondo che il Giglio è sempre un fiore, come recita il titolo della campagna pubblicitaria del comune, sul continente agenzie di viaggio hanno inserito il giro davanti alla nave naufragata tra i pacchetti turistici. Il Titanic nostrano è ancora lì e non manca chi propone il ricordo del 100° anniversario di quel disastro con la storia recente della Concordia, un'unica trasferta turistica con vista sul relitto che preoccupa gli isolani, a cominciare dal sindaco Sergio Ortelli. Il naufragio appunto coincide proprio con questa triste ricorrenza del Titanic, e devo dire triste anche se abbiamo coscienza che queste morti, queste vittime, questa tragedia poteva essere evitata con un minimo di anticipo anche sugli allarmi. Ahimè, questo non è stato possibile e cerchiamo di concepire la tragedia dall'altro lato della medaglia, cioè siamo riusciti a salvare 4.200 naufraghi, per cui direi che un lato positivo ce lo dobbiamo vedere in questa triste vicenda. Non è solo una possibilità né un'iniziativa dei singoli il giro con vista sul naufragio, come già successo nei primi giorni dopo il disastro. Ora ci sono agenzie e tour operator di Grosseto che inseriscono l'itinerario nelle loro proposte, come ben sa il presidente del consorzio Mare e Mare, che raccoglie i principali referenti turistici dell'Argentario, Walter Rossi. Quello che temiamo è un turismo giornaliero, quindi del curioso, di quelli che vengono per un'ora o due al Giglio per vedere la nave e ritornare via. Voi state registrando delle richieste di informazioni, casomai proprio di persone che potrebbero essere interessate quest'estate a venire a farsi il giro per vedere la Concordia? Siamo al corrente addirittura di agenzie viaggi che propongono questo tipo di escursioni. Cioè? Quindi ci sono dei tour operator, agenzie viaggi che propongono visite di un'ora e due all'isola del Giglio. C'è una tendenza a questo tipo di attività. Con l'estate che si avvicina, sempre più tardi arriva il buio a far calare il sipario pietoso sul mondo rovesciato della Concordia, divenuto trappola per 34 persone di ogni continente. Lì, sott'acqua, continuano ad immergersi però i tecnici alla ricerca innanzitutto dei 2 corpi che ancora mancano all'appello e poi di tutti quegli elementi che ancora possono servire per le inchieste. Abbiamo dei corridoi che sono diventati dei pozzi, abbiamo delle porte che sono diventate delle botole, tutti gli arredi ovviamente non stanno più al loro posto, per cui c'è un caos indescrivibile. Il fatto che tu cammini sulle porte e hai il soffitto e il pavimento come pareti. Per questo disastro in 7 per ora sono sotto accusa, a cominciare dal comandante Francesco Schettino, al suo vice, ad altri dell'equipaggio, ma anche 3 funzionari della Costa Crociere. Come in una via crucis sono tornati sull'isola anche negli ultimi giorni i superstiti, i familiari delle vittime e altri sopravvissuti dell'equipaggio. Una tappa alla nave, una preghiera e un ringraziamento ancora nella chiesa di Don Lorenzo, dove furono soccorsi subito quella notte e dove è stata portata anche la Madonnina recuperata dalle acque. Sono venuti anche da me, anche ragazzi giovani che erano nell'equipaggio, gente che era sopra i passeggeri, sono venuti a vedere, a ricordare e a salutarmi, hanno ancora ringraziato. Io come al solito dico sempre ringraziare la gente, perché io sono aperto alla chiesa, ma poi tutto il resto l'hanno fatto la popolazione del Giglio. Nella sua chiesa adesso è stata anche posta la Madonnina recuperata dal relitto della Concordia. Sì, la Madonnina, il tabernacolo, il crocifisso, un Gesù bambino, ma poi soprattutto anche le cose che hanno lasciato in naufragi. Quello che noi abbiamo intenzione di fare è di mantenere dentro nella chiesa un paio di urne, una per salvagenti, teli, uno per questi oggetti sacri, che ricordino quella notte, quel dramma, quelle persone, quelle speranze, in modo che chi entra in chiesa poi veda anche che cosa è stata e si ricordi che cosa è stata quella chiesa. Pezzi di quelle vite interrotte continuano ad essere raccolti dalle acque del Giglio, in cui i tecnici si immergono anche per ripulire i fondali, meta prediletta da tanti sub, da tutto ciò che la nave ha rovesciato. L'agenda degli impegni l'ha snocciolata il commissario Franco Gabrielli. Ci saranno due aspetti, uno che attiene alla parte delle scole, perché c'è tutto del materiale ferroso che peraltro immagino abbia anche un rilievo di carattere giudiziario, perché è la parte nella quale la nave è impattata, e poi il materiale flottante che è depositato e che speriamo in tempi ragionevolmente brevi di liberare dal fondale. Vuole a tutti i costi evitare la gente del posto che i turisti che torneranno ad immergersi possano ritrovare anche oggetti smarriti di vite interrotte. Ma tra le stradine strette di quest'isola, dalle spiagge dove la Concordia è fuori dalla prospettiva o tra i vicoli antichi del castello, ora con più serenità si aspetta la prossima stagione turistica, ora che svuotate le cisterne della nave si è allontanato lo spettro che quelle 2000 tonnellate di carburante potessero marchiare ulteriormente le coste. E infatti subito sono riprese anche le prenotazioni dei turisti, come registra Walter Rossi del Consorzio Mare in Mare. Ogni anno la Pasqua fa storia a sé, proprio perché dipende dalle condizioni meteorologiche. Linea di massima che rispetto all'anno scorso noi stiamo registrando un calo di un 15-20%. Dopo l'incidente della Costa Concordia, voi che tipo di reazione avete registrato? Nei primi due mesi dall'incidente abbiamo subito un calo. Persone che hanno rivisto la loro prenotazione che avevano fatto nei mesi di dicembre e gennaio, quindi abbiamo registrato nei primi due mesi un calo del 18-20% rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, e questo sicuramente dovuto alle sincere preoccupazioni di danno ambientale. In questo momento che l'ipotesi è il rischio di un danno ambientale è evitato, però comunque si ha già la certezza che questa, la prossima, sarà un'estate con il relitto della Concordia ancora lì. Che tipo di previsioni avete? Da metà marzo ad ora, e grazie anche alle continue campionature dell'acqua che hanno dichiarato essere l'acqua del Giglio sempre cristallina e pulita come sempre, noi abbiamo riscontrato una ripresa forte delle prenotazioni, tanto che alla data attuale le posso dire che stiamo registrando le stesse prenotazioni ricevute negli anni passati. Una normalità che, se torna nelle cifre degli albergatori, non è di certo nel paesaggio dell'isola, anche se sembra aver inglobato il profilo inclinato della Concordia. A lungo ancora la nave resterà spiaggiata lì, estrema propaggine delle coste, fino a che non cominceranno i lavori difficilissimi per portarla via tutta intera. La compagnia Costa Crociere prevede che saranno necessari almeno 10 mesi, ma con questa prospettiva ormai tutti sul Giglio convivono, a cominciare dal primo cittadino Ortelli. Partirà dalla seconda quindicina di aprile, infatti in questa settimana ci sarà una prima selezione delle aziende che avranno, diciamo così, diritto di partecipare a questa gara finale, di questo bando che è stato lanciato come si fa da Costa Crociere. Ecco sindaco, voi avete lanciato una campagna associando e ricordando come il nome della vostra isola sia anche il nome di un fiore, una campagna per cercare di allontanare le immagini che hanno fatto il giro del mondo di quella nave che però è ancora lì. Giglia in fiori significa che sta arrivando la primavera e che quindi ci stiamo riempiendo di bellissimi colori. Quindi un momento in cui il progetto vero e proprio tende a dissociare l'accostamento che c'è oggi tra il Giglio e una brutta tragedia e trasformarlo in Giglio, posto ideale per la vacanza. I fiori tornano a colorare gli scorci del Giglio, come i petali che i familiari delle vittime del nostro più grave naufragio affidano alle onde ogni volta che arrivano accanto alla più dolorosa tra le stazioni della loro personale Via Crucis, una nave che doveva ospitare un sogno e che è diventata una trappola per 34 vite e un incubo per 3.200 passeggeri. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.